Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Bene, un cordiale buongiorno da parte di Filippo Glorioso, un buongiorno a tutti quanti voi. Tempo, diciamo, stabile fino a domenica, poi ritornerà ad essere uggioso, come diceva una famosissima canzone degli anni 70. Un buongiorno a tutti coloro i quali sono in ascolto in questo momento, alle forze dell'ordine in particolare. Sapete che io ho una predilezione per loro, anche se qualcuno poi può fare delle defiance, ma è gente, insomma, che mette a repentaglio la propria vita, e negli ultimi tempi abbiamo visto quello che è successo a Roma. Poi ci torneremo magari più tardi, perché abbiamo un grande ospite per telefono. Intanto do il benvenuto e ringrazio l'assessore Patanella, il dottor Patanella, che è attuale assessore al comune di Cefalù allo spettacolo e al turismo. Lo ringrazio per essere intervenuto, se mi farà compagnia per un bel po'. Parleremo di Cefalù, parleremo delle tematiche attinenti allo spettacolo e soprattutto al turismo, visto che negli ultimi tempi Cefalù ha fatto qualche defianza, ma in tutta la Sicilia ci sono stati dei problemi, vista la sacca depressiva, che io la chiamo in questo modo, dal punto di vista economico. Assessore, buongiorno. Posso notare, se vuole, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È una presenza ingombrante, nel senso che è una bella persona, aperta, molto accetta le battute. Attenzione, c'è qualche rumore in cuffia, grazie. E, dicevo, è una persona molto aperta, molto simpatica, giovanile, ma è 1,90 m x 2, insomma, una persona veramente veramente fa piacere averla con noi, e dà il senso proprio dello star bene in salute. Quindi grazie ancora per essere con noi, assessore. Tra poco ritorno da lei. Intanto volevo presentarvi, tra pochi minuti avremo in diretta telefonica un ospite che è di tutto riguardo. Anche lui è stato qui nei nostri studi, ha collaborato con noi per quanto attiene lo sport da Castelbuono. Oggi è un personaggio pubblico, ha fatto tantissime inchieste di una rilevanza nazionale, di un'importanza strategica per alcuni ambienti, vedi la forestale, vedi la sanità. Ha fatto l'ultimo suo lavoro, si chiama Sex in the Vatican, ed è un libro straordinario, consiglio a tutti quanti di leggerlo. Lui si chiama Carmelo Abate, è oriundo da Castelbuono, quindi madonita, quindi siciliano, scrive e lavora per Panorama a Milano. Intanto, prima di chiamarlo, anzi la regia si sta già prodigando a chiamarlo, volevo ringraziare la trattoria La Lanterna a Castelbuono, con pasta fresca casareccia, olio d'oliva, i prodotti dell'orto Locari, funghi stagionali di bosco raccolti dalle Madonie. Andate alla Lanterna a Castelbuono perché un ristorante di tutto riguardo, e naturalmente è una buona cucina per il vostro buon palato. Andiamo avanti con EG Auto, sempre a Castelbuono, plurimarche dell'Audi, Volkswagen e Porsche. Ma chi non si potesse permettere il lusso di comprarsi una macchina di così alto bordo, beh, può comprarsi anche un'utilitaria. L'amico Eugenio Franco è a vostra totale disposizione, un anno di garanzia sull'usato e poi anche forse 2 anni sul nuovo. Modalità di pagamento, questo vi accordate con Eugenio Franco, che è il titolare di EG Auto. Poi anche carrozzeria, per cui se avete qualche necessità urgente di riparare la vostra macchina dal punto di vista estetico, non ci sono problemi, fatelo pure chiamando il numero 334 209 0047. EG Auto, un marchio, una garanzia. Dovremo avere adesso in diretta radiofonica, come annunciato prima, uno scrittore, giornalista, uno che il giornalismo lo fa veramente a tu per tu con la gente, facendo delle inchieste di una certa rilevanza ed importanza. Ha scritto un ultimo suo lavoro, si chiama Sex in the Vatican, quindi dove si capisce da solo. L'ho già detto che è stato con noi in radio per diverso tempo, ha collaborato per lo sport da Castelbuono, per cui è un cordiale rientro. Allora, Carmelo, buongiorno, grazie per aver accettato l'invito. Pronto? Pronto? È caduta la linea? Andiamo avanti, allora, caduta la linea, perché stiamo parlando con il telefonino. Carmelo si sposta sempre in continuazione e d'altronde fa il lavoro di giornalista, non potrebbe essere diversamente. Dicevo che Castelbonese, e le inchieste che ha portato avanti di una certa rilevanza sono quelle sulla forestale. Addirittura la cosa eclatante è stata che si è spacciato per un medico, intrufolandosi nei meandri di diversi nosocomi, e lì è riuscito poi a capire come l'andazzo del lavoro, e a scoprire quello che in realtà non si riusciva a scoprire. Dovremmo avere adesso di nuovo in diretta, ancora qualche secondo, Carmelo Abate, che dicevo scrive tantissimo, ha un altro lavoro in corso, adesso ne parleremo con lo stesso Carmelo. Dovrebbe essere in onda, mi confermate la regia che è in onda, Carmelo? Pronto, Carmelo? Pronto? Ci sono problemi con la linea, mentre voi tentate io comincio a fare passiamo un attimo subito allora la palla all'assessore, il quale si stava direzionando già di leggere quello che Carmelo ha scritto circa questo Sex in the Vatican, dove fondamentalmente si parla di sacerdoti, non attacca nessuno. Chi ha letto il libro sa che invece è una critica verso il Gotha, quindi del Vaticano, della nomenclatura ecclesiastica ai vertici, quindi i cardinali, i vescovi, eccetera, non certo verso i preti che hanno poi, come si legge dai pensieri di Carmelo, hanno le loro perplessità, hanno le loro debolezze, e quindi in quello andrebbero supportate da parte della leadership del Vaticano. In realtà così non è, però vi invito a leggere il libro, perché da lì capirete veramente tutto quello che ruota intorno al sacerdozio e alla Chiesa Cattolica Romana. Invece una domanda all'assessore: come è andata quest'anno dal punto di vista turistico Cefalù, assessore? Ma Cefalù quest'anno continua nel trend di crescita delle presenze. Già nel 2010 avevamo confermato le presenze del 2009 spostandoci appena di un punto in avanti. Quest'anno, con soddisfazione, al 30 settembre siamo già all'8,90% di presenze in più, evidentemente, rispetto al 2009, e quindi un 10% rispetto al 2008. E queste presenze evidentemente sono frutto del buon lavoro che tutti gli operatori turistici hanno fatto in questa città, sono frutto del buon nome di cui gode ancora Cefalù in tutto il mondo, sono frutto, se mi permettete, non perché l'ho detto io, ma perché ce lo dicono i giornalisti, i tuoi colleghi, il TG3 proprio pochi giorni fa lo diceva in televisione, dell'ottima programmazione turistica che è stata fatta in particolare a Cefalù e a Taormina, degli intrattenimenti, gli spettacoli, della capacità di in qualche modo accogliere i turisti, non soltanto dal punto di vista della buona cucina, che è il nostro punto di forza, dello splendido mare e lo splendido sole, ma anche della capacità di far trascorrere loro delle serate interessanti e delle serate attraenti sotto il profilo dello spettacolo. Però è chiaro che questo incremento, e non dobbiamo tacerlo perché sarebbe sciocco farlo, è dovuto anche a un forte decremento dei paesi del Medio Oriente e dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Le varie guerre e rivoluzioni che sono scoppiate. È chiaro, no? Che chiunque si orientava verso la Tunisia, verso l'Egitto, perché aveva dei prezzi assolutamente competitivi rispetto al resto d'Europa, non lo ha più fatto per paura di quello che è successo. È inutile dire però che tra un paio d'anni ritorneranno a essere dei competitor molto forti, certamente più forti, perché dei paesi dove la democrazia inizia ad affacciarsi, e quindi evidentemente faranno meno paura per il turista. A questo punto, come ci prepareremo noi a questo impatto concorrenziale da parte dell'Africa? E questa è la domanda che ci dobbiamo porre, che ci siamo posti, e abbiamo iniziato per esempio attivando uno strumento, a mio modo di vedere, che sarà il futuro del turismo nella regione siciliana, che è quello dei distretti turistici. Cefalù ha preso parte a due distretti turistici, di entrambi è capofila, uno che è quello territoriale, attiene appunto al suo legame fortissimo con le Madonie e con il Parco della Valle Limera, ed è appunto il Cefalù Madonie Parco dell'Imera. Sono 30 comuni e oltre 100 privati che si sono messi insieme per dare un prodotto unico, usando quello che per esempio la Camera di Commercio di Monza ha definito essere un autentico patrimonio economico per il valore che ha attribuito al brand delle Madonie, sposato evidentemente a Cefalù, che è un brand già di per sé, e allargato alla valle, al Parco dell'Imera, che è l'archeologia, la storia di quest'area. Accanto a questo, e chiudo, capisco che riesco, probabilmente sono lungo, il distretto turistico tematico, il pescaturismo e la cultura del mare. No, mi piace comunicare quello che ho fatto, perché una delle difficoltà che abbiamo spesso in politica e soprattutto da parte di chi governa è spiegare ai cittadini quello che si è fatto. Allora io tutte le opportunità che riesco a cogliere, di questo ti ringrazio per avermi invitato, cerco di sfruttare. Ti fermo un secondo, assessore, perché abbiamo ancora molta carne al fuoco da arrostire e poi da gustarci nel nostro palato. La trattoria della Lanterna di Castelbuono. La trattoria della Lanterna di Castelbuono, bravo. Che vi dicevo, è molto spiritoso e quindi è piacevole stare con lui. Allora, dovremmo avere adesso finalmente in diretta radiofonica, dopo tante peripezie, del nostro carissimo amico, mi si consente il plurale perché parlo anche a nome dell'editore, è felicissimo di sentirlo ed è con noi Carmelo Abate che ringrazio. Non sento più nulla. Pronto, mi senti Carmelo? Pronto Carmelo, mi senti? Non sente nulla Carmelo. Allora io ho un problema, c'è un problema. Allora assessore, oggi è una giornata un po' così, Milano c'è cattivo tempo, non so se riusciamo, pronto? No, andiamo avanti. Allora, vi dicevo questo, assessore, chi viene a Cefalù, sì, va bene il mare, va bene la ricezione alberghiera, abbiamo un termine, io sono siciliano, mi sono fiero anche di avere nel nostro locomotore che è Cefalù, degli alberghi straordinariamente belli, accoglienti, ricettivi. La gastronomia poi non si discute, insomma, poi si fanno dei passaggi anche su Castelbuono, che è una capitale dell'entroterra madonita, e non è discutibile, anche Campo Felice ha dato risposte su questo, però Cefalù gli manca un quid, assessore, secondo te cos'è che manca a Cefalù per essere rivalutato al 100% come gli anni 60-70? Guarda, la risposta è la più semplice possibile e la risposta me l'ha data uno dei più grossi tour operator che ho incontrato 2 anni fa alla fiera di Milano, la BIT, al quale ho chiesto cosa manca a Cefalù, cosa dobbiamo fare. E lui mi ha dato una risposta che mi ha lasciato spiazzato, perché rispetto per esempio a un mercato che parla di conservazione del territorio, ricchezza delle origini, delle tradizioni, recuperi dei centri storici, lui mi dice tutto questo voi l'avete, vi manca maggiore capacità ricettiva. Voi avete 6.600 posti letto, ormai qualunque tour operator che si rispetti non prende in considerazione località che abbiano meno di 10.000 posti letto. E in questi 10.000 posti letto ci vogliono alberghi a 5 stelle, alberghi di lusso, alberghi che diano un comfort totale, dalla famosa spa, quindi dai centri benessere, fino a una capacità di accoglienza multilingue. Tu dicevi bene, Cefalù ha tantissimi alberghi, ha una grande tradizione, però a Cefalù manca ormai da 5 anni il Club Med, che è stata la storia del turismo di questa città. Oggi finalmente, grazie al rapporto con Invitalia, il Club Med ha presentato un progetto di rinascita, un progetto a 5 stelle, come dicono loro, a 5 tridenti, e quindi con una grande spa. Questo certamente aiuterà il rilancio perché va nella direzione del mercato che ci chiedono i grossi tour operator. Questo non significa che la scelta del turismo di Cefalù deve essere verso la soddisfazione delle richieste del tour operator, deve in qualche modo tenerne conto, ma deve, e magari ne parliamo dopo, sì. Mi spiace, ti devo fermare, noi certo, siamo qui, quindi abbiamo tutto il tempo, ma noi siamo qua, ma Carmelo no. Carmelo dovrebbe esserci, allora finalmente mi auguro in diretta, speriamo che questa volta funzioni, l'amico Carmelo Abate. Carmelo? Sì, ciao, eccomi qua. Finalmente, ciao, ben arrivato tra noi. Insomma, grazie. C'è Angelo Arduino, i fonici che si sono dati da fare perché finalmente potessimo parlare in tutta tranquillità. Dicevo prima che tu entrassi in onda, mi senti sempre, sì? Pronto? Adesso la voce non la sento più. Non mi sente più, mannaggia la miseria, è proprio oggi è una... E non vogliono farti parlare, stanno facendo dei sabotaggi, Carmelo. Adesso ti sento piano, poi ci proviamo, dai. Mi spiace per chi ci ascolta. No, ma noi ti riceviamo benissimo. Il problema forse è tuo che non ci ricevi perfetto, bene. Adesso ti sento. Oh, perfetto, fermati lì, non te muove, facciamo gli scongiuri. No, allora, ma ti giuro sono fermo. Allora, intanto ti ringrazio perché sei stato gentilissimo ad accettare l'invito da parte mia, ma di tutta la redazione che ti saluta perché lo sai molto meglio di tutti. Dicevo prima in radio che sei stato con noi, un collaboratore anche di CRM per lo sport da Castelbuono, è vero? Adesso ti sento benissimo e se tu non me l'avessi detto te l'avrei chiesto io il permesso, perché voglio dire c'è un pezzo di cuore lì, cioè adesso sentivo anche, non ho capito purtroppo la persona chi era, ma sentivo una persona che parlava di Cefalù e mi si apriva il cuore. Lo presento perché... e ti saluta anche lui perché è il tuo libro in mano, Sex and Devatica, nell'assessore al spettacolo e turismo di Cefalù, che è guarda, il dottor Patanella. Ho fatto l'istituto tecnico a Cefalù, ho lavorato a Cefalù perché facevo il cameriere e sai quanti matrimoni in tutti gli alberghi di Cefalù che mi sono fatto da cameriere. E poi quando ho iniziato questa professione, che allora era qualcosa a metà tra l'hobby e la voglia di farlo da grande. Cefalù Radio Madonia, la trasmissione con Pino Simplicio, io ero praticamente uno di quelli che col telefonino andava a seguire le partite e realizzava quanta, il quanta sogno gavetta, di una vita. Carmelo, quanta gavetta, vero? Quanta stupendo, guarda, siamo stupendo. Felici sinceramente, a parte che sei siciliano, ma poi sei madonita come noi, siamo veramente felici di averti in radio. Intanto ti voleva salutare l'assessore Patanella e di concerto con me, me lo consenti di lanciare un appello a Carmelo? Carmelo, allora, di concerto con l'assessore, ti aspettiamo con l'ultimo libro per presentarlo a Cefalù. Ma io, guarda, tra l'altro volevo dire, noi ormai da 3 estati facciamo qua a Cefalù incontri culturali dove presentiamo i libri più importanti del momento, e non c'è migliore occasione che presentare un libro così importante e scritto da un figlio di questa terra, quindi senz'altro rinnovo il mio invito luglio prossimo a essere qui presente per una serata. Carmelo, non ti puoi esimere. Mi prendo l'impegno. E Carmelo è una persona seria. Grazie. Mi prendo l'impegno. Allora, grazie molto per l'invito. No, ma tu sai quanto io ti stimi, pur non conoscendoti personalmente, ma leggendoti, insomma, ho imparato a conoscerti, a stimarti, poi ci siamo sentiti, e questo... No, ma è la verità, sei una persona molto umile, sai, uno scrittore, un giornalista del tuo calibro, mi consentirai di dire questo, e lo dico col cuore, non per fare degli elogi così, giusto perché tu sei un personaggio pubblico, ma perché poca gente scende così ad essere umile come tu riesci a fare. Nessuno avrebbe detto: ho fatto il cameriere o altre cose tipo l'inviato col telefonino eccetera. Questa la dice lunga sul tuo modus operandi e sul tuo modo di essere uomo prima che giornalista. Però volevo entrare subito nel contesto del libro che io e molta gente ha letto in Italia. Intanto è stato poco pubblicizzato e sappiamo tutti le motivazioni, perché va a attaccare il gota della nomenclatura della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Il tuo libro è straordinario. Io ti volevo chiedere perché proprio hai fatto diverse inchieste, lo ricordavo prima che tu entrassi in trasmissione, ma questa è un'inchiesta bella e buona nei confronti di una casta, la casta sacerdotale. Perché proprio loro? Perché a un certo punto le cose spesso nascono per caso. Io mi imbatto in questa, io che amo fare l'inchiesta sul campo e calarmi nei panni della realtà che poi voglio raccontare, fatto facendo il clandestino, facendo il falso medico, facendo di tutto. A un certo punto mi sono ritrovato a vivere in qualche modo la realtà di una buona parte della sfera sacerdotale romana alle prese con festini, soprattutto di natura omosessuale, nelle notti romane. Era diventata una copertina di panorama che fece molto scalpore, non solo in Italia ma anche all'estero, che fu dal titolo Le notti brave dei preti gay. Sì. La reazione del Vaticano, con una reazione ufficiale del vicario del Papa, fu quella di dire: all'inizio la mettevano in discussione la bontà e le cose che andavo a raccontare, poi quando si capì che in effetti la bontà dei fatti c'era tutta, sì, la reazione fu: sono soltanto tre mele marce, il resto della Chiesa è pulita. Allora a quel punto io, che avevo avuto invece sentore che non si trattasse di 3 mele marce, ma che ci fosse veramente sotto un intero paniere, per non dire un'intera cesta. Esatto. E allora per un anno ho cercato in tutti i modi di capire che cosa succedeva veramente sotto il tappeto. Ti fermo un attimo, Carmelo, io ho letto il tuo libro e non c'è nessun pregiudizio da parte tua e nessuna condanna, io credo, da parte tua nei confronti della casta sacerdotale, mentre c'è una denuncia velata, ma anche senza veli, nei confronti del gota della leadership, no, della Chiesa Cattolica. Sbaglio o ci ha azzeccato? No, esattamente così, hai colto il cuore del libro, perché io non il senso di quel libro non è di prendere il singolo prete, di metterlo in piazza e di esporlo al pubblico ludibrio, anzi io spesso e volentieri presento il prete come la prima vittima del sistema, perché è folle poter pensare che un essere umano possa reprimere e dimenticare la sua sfera più naturale, la sfera della sessualità. Vogliamo pensare che sia possibile o vogliamo pensare che sia pazzo poter vivere senza la propria sfera della sessualità? E allora di fatto i preti si ritrovano ad essere le prime vittime di un sistema che pretende di tagliargli la parte più fondamentale. I preti arrivano all'età fra i 35 e i 40 anni, la mia età, e si ritrovano che praticamente hanno votato la loro vita a una missione che poi di fatto, quando la domenica si chiude il portone della chiesa, c'è solitudine, c'è depressione, spesso c'è la mancanza di una spalla su cui appoggiarsi, dove piangere, c'è alcol, c'è droga, c'è di tutto, c'è smarrimento. E allora io è quello che ho voluto raccontare, l'ho voluto raccontare puntando il dito, perché quello poi è chiaro e l'accusa è precisa, contro la gerarchia, perché dall'altro lato c'è una gerarchia che in nome di una gestione del potere, di mantenimento del potere, è miope, fa finta di non vedere quello che succede al suo interno e tratta come mele marce quei pochi che poi esplodono e vengono a galla. Non è così, perché se chi ha una sfera sessuale, affettiva, nascosta, viene considerata mela marcia, allora almeno i tre quarti del corpo sacerdotale di tutto il mondo è marcio. Ma per me non è quello il punto, perché io ho intervistato, coperto da anonimato, una suora olandese che sta in Africa e fa la missionaria e che mi dice che da quando c'ha un compagno nascosto con cui si vede, con cui fa sesso, perché la parola sesso si può dire, e viva Dio, mi viene da dire, è una suora migliore, adempie meglio la sua missione, è più serena ed è più pacifica. Questo è quello che voglio raccontare, perché da un lato poi non riesco a concepire la doppia morale della gerarchia. Se vuoi, e ci abbiamo tempo, brevemente ti dico anche cos'è questa doppia. Ascolta, Carmelo, il tempo ce l'abbiamo e non ti creare problemi di tempo. C'era una domanda che ti devo fare io, ma ti faccio, lascio un attimo lo spazio all'ospite, al dottor Patanella, il quale desidera farti una domanda. Prego, dottor Patanella. Ma io poco fa sfogliavo il libro, ho letto qualcosa e ora sento parlare l'autore. Io volevo fare una domanda squisitamente tecnica. Solitamente i titoli e libri li danno gli editori. Non so se sia successo anche in questo caso, ma poi leggendo quello che si dice dentro, probabilmente il sesso c'entra poco. Io vedo tante storie di amore, di esseri umani, un'altra forma di amore da quello che un prete dà evidentemente alla Chiesa e a Dio. Non vorrei che magari nel tentativo di vendere il libro sotto forma di scoop lo si stia penalizzando, perché quello che ho letto e che sento raccontare sono storie davvero interessanti sulle quali riflettere. Chiamare poi il libro Sex and the Vatican, sesso credo che c'entra assolutamente poco. Ci sono tante coppie che prescindono dal sesso senza per questo stabilire di diventare suore o di diventare preti. Poco fa tu parlavi di una suora che ha trovato un compagno. L'aspetto sessuale secondo me c'entra. Allora facciamo un commento, forse che l'editore non stia penalizzando questo splendido scrittore siciliano, punto interrogativo. No, sicuramente la considerazione è legittima, forse anche corretta, cioè io non, come dire, è possibile tutto ciò ed è verissimo e mi fa piacere che venga colto che Sex and the Vatican non è un libro sul sesso. Io credo che la parola, il titolo non lo fa l'autore, il titolo lo fa l'editore, cioè l'autore scrive il libro, l'editore deve vendere il libro. Il titolo in qualche modo ammicca alla serie americana Sex and the City, qualcosa del genere, cioè poi sinceramente io ero e sono più concentrato a dare sostanza a quello che vado a raccontare e mi fa piacere, ripeto, che venga colto che non è un libro sul sesso, cioè il sesso non c'entra nulla, è un libro sull'affetto, sull'amore, sulla delusione, perché è un libro che racconta la tragedia di tantissime donne che vivono queste relazioni nascoste, le compagne dei preti, perché facciamo finta di non vederle, facciamo finta di che non esistano, mentre in realtà esistono, ci sono le compagne nascoste dei preti. Io racconto nel libro il loro dramma di stare lì nascoste, come la donna che c'ha l'amante sposato e che ogni tanto si ricorda, scappa e sgattaiola di notte a casa sua per poi riscappare. Sono donne che vivono anche con un senso di colpa perché pensano che il loro compagno sia costretto a vivere questa doppia vita e loro sono la causa, cioè si prendono addirittura la colpa, e lì racconto proprio il dramma di queste persone. Quanto al fatto di un libro poco pubblicizzato o meno in Italia, cioè io non credo però che dipenda dal titolo, cioè il problema è che quel libro, intanto tutto quello che è successo in Italia era assolutamente preventivato e, come dire, messo in conto, perché Forse anche per quello si è cercato un titolo che potesse andar bene per il mercato internazionale, perché è un libro che comunque è stato tradotto in francese e in Francia è uscito in concomitanza con l'Italia ed è stato addirittura in classifica, 12° nella classifica assoluta dei libri più venduti in Francia, è stato in classifica per tantissimo tempo e io sono andato a parlare in televisione in prima serata come se andassi domani su Rai 1 a parlare del libro, sono andato su tutte le maggiori radio nazionali. Però, come dire, sono altri paesi. È un libro che adesso sta per essere tradotto in altre due lingue e pubblicato in almeno 5-6 paesi. È un libro che è uscito in Canada ed è un libro che come dire, che viene colto all'estero come veramente un libro che affronta il cuore di un problema molto forte. Io mi rendo conto che l'Italia è un paese in cui è difficile arrivare con un tema così forte e dire alla gente guardiamoci in faccia, cioè facciamo, non andiamoci da un'altra parte, come forte è stata la pressione da parte della conferenza episcopale italiana, cioè quando l'Associated Press, anzi no scusate, France Press è andata a provare a intervistare la CEI e il vicario del Papa a proposito di questo libro, è stato risposto che non bisognava parlare di questo libro per non fare pubblicità a questo libro. Ora sarà un fatto, ma nessuna televisione italiana ha mai citato questo libro, nessun quotidiano nazionale, almeno tra quelli maggiori, ha mai assolutamente fatto una recensione anche solo di due righe a questo libro, però nonostante tutto devo dire che attraverso il passaparola comunque è un libro che è andato benissimo, che ha avuto già 3 ristampe e che comunque se ne parla. E poi mi posso dire... Carmelo, sì, e poi mi piace sei un fiume in piena. Sì. Ascolta, siccome poi incombe anche la pubblicità che possiamo benissimo spostare per qualche minuto ancora, ma ti volevo fermare, tu parlavi prima, poi c'era un contraddittorio da parte anche del contraddittorio benevolo nei tuoi confronti perché ti stima, era soltanto un discorso, voglio dire, attinente a un discorso economico appunto del titolo che potesse usufruire meglio di un intervento economico da parte dell'usufruttore finale e non del contenuto. Ma la domanda che ti volevo porre è questa, tu hai fatto cenno alle donne dei preti, no? Alle amanti, chiamiamole così, insomma quello poi il termine ultimo, c'è che poi riesce a spogliarsi degli alari o è stato sospeso ai divinis e quindi va fuori dalla chiesa con enormi sacrifici, con tanta come dire batoste psicologiche tra l'altro, no? C'è anche questa diatriba, il prete con se stesso ha delle lotte intestine molto molto forti, ma c'è l'aspetto anche dei figli dei preti che sono la parte poi finale ma la parte più delicata, io credo. Papà, perché, mamma, scusa, perché tutti hanno un papà e io no? Prova a ripetere sta domanda e a metterla nella bocca di un bambino di 5 di 6 anni. Mamma, ma perché tutti hanno un papà e io non ce l'ho un papà? Perché a scuola mi fanno fare i lavoretti per la festa del papà se io un papà non ce l'ho? Sono bambini che ce l'hanno un papà, cioè a me viene la pelle d'oca, le racconto le storie dei figli e preti. Cioè, ma viene la pelle d'oca a pensare a un bambino che non può pronunciare la parola papà in pubblico. Carmelo, prima di farti le ultime due domande, io davo un attimo la parola a Patanella, voleva chiudere con una domanda ancora nei tuoi confronti. Prego, Patanella. No, io, per carità, lungi da me, ha risposto già alla domanda che facevo presente, ed evidentemente a maggior ragione in Italia un titolo del genere è troppo forte perché possa destare quello scandalo che magari l'editore cercava o la necessità di leggerlo da parte del fruitore finale e quindi la voglia che lo scrittore ha che il suo libro si legga. Secondo me il tema che poni è un tema importante, probabilmente ti lancio una sfida se ritieni, se me lo posso permettere. Peppuccio Tornatore, quando presentò Nuovo Cinema Paradiso, siede 5 giorni nelle sale e fu levato perché era troppo lungo. Un grande uomo gli disse lo devi rimontare e tagliando 45 minuti di quel film diventò un premio Oscar. Allora il ragionamento è, se si vuole, se si pensa di dibattere sull'argomento, parlare di sesso e Vaticano secondo me è sbagliato. Quello che tu dici è senza dubbio un argomento di interesse, lo proporrei così come lo dici, cioè capire se l'amore di un uomo e quindi in questo caso di un prete, e debba prevalere o essere alla pari dell'amore che il prete dà nella sua scelta di vestire l'abito talare e quindi nella scelta di amare Dio e di amare Cristo. Un tema del genere probabilmente interesserebbe ai giornali, interesserebbe alle televisioni, anche in Italia. È ovvio che Sex and the Vatican in Francia, in quei paesi notoriamente laici, ha una forte attrattiva, e probabilmente sia perché il titolo potrebbe destare scandalo, sia perché questi temi sono più abituati a dibatterli. In Italia, se si avverte la necessità di aprire questo tema, secondo me sono temi che riguardano sostanzialmente la Chiesa e il suo modo di gestire il rapporto all'interno con chi evidentemente in questo caso la serve, piuttosto che oggi io vedo in Italia problemi, non per sminuire, attenzione, non voglio essere critico dell'opera meritoria e coraggiosa che hai fatto, anche se potrebbe non essere condivisa da parte mia o da parte di Filippo o di tanti altri, o da altri essere anzi promossa e condivisa. Il ragionamento è, io leggevo la tua storia. Quando tu fai il clandestino, quando tu vai a dibattere sul caporalato, sono forse questi i temi in questo momento molto molto più forti e che si dovrebbero proporre, fermo restando l'opera coraggiosa e meritoria che hai fatto, attenzione, non la sto sminuendo, intendo dire forse la mancanza di attenzione dei media rispetto a questa opera sono dovute dalla necessità invece di dare più spazio a temi in questo momento più scottanti, solo questo. Forse il momento, l'osservazione sul titolo la trovo legittima e sacrosanta, però ti faccio una domanda: secondo te quanti sono oggi gli editori, detto che PM è un editore per me straordinario, comunque è un editore che non cercava scoop e sensazionalismo, perché farei veramente un torto a questa serissima e grandissima casa editrice, che oggi è la terza casa editrice in Italia. Poi ha una tradizione che tutti conoscono, anzi qualcuno ha trovato addirittura quasi blasfemo un titolo così in una casa editrice come PM. Allora io ti faccio un'altra domanda: secondo te quanti sono oggi in Italia gli editori che anche con un altro titolo avrebbero pubblicato un libro del genere? L'assessore ride perché ci rendiamo conto È chiaro che si assumono una responsabilità. Purtroppo mi piace dirlo, ma è così, cioè è così. Ora, ripeto, io trovo legittima e forse anche centrata, cioè non ho la risposta alla domanda sul titolo, però il punto è che il cuore del libro è c'è ed è forte, cioè se ci si vuole fermare al titolo, secondo me è un modo per non affrontare il problema. Quanto problema? Io credo che sia un problema epocale, cioè adesso non perché l'ho scritto io, chi se ne frega, l'avrebbe potuto scrivere qualcun altro, poi nelle altre parti del mondo se ne parla, ci si confronta, ci si chiede se il celibato abbia o non ragione di esistere. Io trovo che sia veramente un problema epocale, cioè sia un problema centrale di questo. Poi per carità, c'è la crisi e tutto può anche passare in secondo piano. Però questo attiene veramente alla nostra sfera primaria, cioè la sfera della fede, cioè la sfera della comunione sociale, al di là che spirituale, secondo me. Quindi è epocale come momento. Poi, ripeto, io sono non contento di più rispetto a come sta andando il libro, perché era tutto come previsto, non so, è tutto come previsto. Bene, Carmelo, mi raccomando, cerca di essere più stringato, perché tra te e Patronella vi siete mangiate le mie domande, però benvengono, perché comunque l'avvocato Patronella ha fatto una critica costruttiva, non assolutamente no, costruttivissima, ben venga, ma ripeto, è anche centrata secondo me, cioè non è, ma che andava in aria, la condivido, che andava, voglio dire, a favore tuo, non a sfavore tuo, nel senso che magari cambiando titolo possibilmente in Italia anche i mass media avrebbero dato maggiore risalto, eccetera eccetera. Fermiamoci un attimo qui, devo farti una domanda invece. Nel libro io ho letto una frase che mi è rimasta molto impressa e secondo me hai centrato, ed è quella che i tanti tesori vaticani, le tante proprietà vaticane, i tanti palazzi vaticani, se il prete si sposasse con tutte le mogli, insomma, voglio dire, non rischierebbero il depauperamento di questi beni di Santa Romana Chiesa? Sai, un uomo da solo lo controlla. Queste sono teorie di alcuni studiosi del fenomeno che io riporto, studiosi a livello internazionale. legittime anche quelle, perché probabilmente un uomo solo lo controlli abbastanza facilmente, ma nel momento in cui quest'uomo c'ha moglie e figli, la scala di discendenza subentrano altri interessi, evidenti, e incominciano ad arrivare. Poi le donne sono notoriamente più intelligenti e più furbe di noi uomini, quindi sarebbe un bel problema. Ci sarà un motivo per cui la Chiesa le tiene a debita distanza, le donne, no? Perfetto. Carmelo, un'altra cosa, io so che tu ti stai accingendo, stai lavorando su un altro libro, non ti chiedo naturalmente su quale tematica ti stai muovendo, perché è top secret, però hai già iniziato il tuo ultimo lavoro? Sì, devo concluderlo e sono anche un po' in ritardo. Uscirà in primavera e sono proprio nel bel mezzo della scrittura. Una domanda ed è un lavoro che anche stavolta mi sta spremendo dentro. E lo credo. Perché non è che le cose che vado a raccontare mi lasciano indifferente. Cioè, ti lasciano un segno dentro. Mangiapreti. Ma ci mancherebbe. Ma poi, come hai detto prima tu, è gente che insomma affronta la vita come tutti quanti noi, nel bene e nel male, e la differenza è che magari noi abbiamo una compagna accanto, un fratello, eccetera, mentre loro si trovano da soli ad affrontare, psicologicamente la cosa diventa molto più difficile. Per fortuna però che abbiamo anche dei pilastri nella nostra Chiesa, che insomma è il punto di riferimento, e tu lo sai meglio di me, insomma, eccetera. Allora, ma poi sono dei buoni preti, è questo che cerco di dire, cioè non è che perché hanno una vita sessuale o affettiva nascosta automaticamente sono cattivi preti. Questo lo dice il Vaticano, perché vuole assolutamente mantenere uno stato di fatto che non si cura del loro stato d'animo. Invece io dico che è diversa. Senti, un'ultima domanda, anzi prima di farti l'ultima domanda, quando questo libro sarà pronto naturalmente noi ti aspettiamo a Cefalù, perché qui c'è Patanella che sta scalpitando, dice non vorrei che si fosse offeso con me per quello che ho detto, perché ho parlato in suo favore. Ti vogliamo bene intanto, perché comunque è un'opera meritoria, ci mancherebbe altro, non sei stato blasfemo nella forma più assoluta, hai portato i fatti, hai denunciato i fatti e quelli sono e quelli restano, non hai diffamato nessuno, voglio dire, per cui lasciami dire veramente l'assessore che apprezzo tantissimo quello che mi ha detto, e ripeto, non mi sembrano neanche delle osservazioni campanali, sono osservazioni legittime e che sono dubbi, io non ho certezze nella vita, avere certezze e forse sono anche centrate, quindi le condivido, non so, lo dico in modo chiaro. Ripeto, il problema magari è un po' più complesso e c'ha altre sfaccettature, però le condivido e sono centrate. Un'ultima domanda, Carmelo, te la faccio da uomo a uomo, lasciamo stare le nostre professioni e la stima reciproca che abbiamo. Io di te ho una stima immensa, te l'ho dimostrato e te lo dimostrerò nel tempo, se il tempo sarà galantuomo. Ti ringrazio. Ma no, figurati, anche perché sono una persona semplice, dici quello che pensi con molta naturalezza, non ti pari dietro nessun paravento, non ti ergi ad essere Deo ex machina, per cui sei una persona stupenda e straordinaria. La cosa che ti chiedevo da uomo a uomo è questa: tu sei anche marito, sei anche papà, presumo, tutta questa storia, il fatto che tu faccia giornalismo d'arrembaggio, nel senso che ti cali nei panni, o per meglio dire entri nei meandri di alcune storie, le fai proprie e poi ne hai delle sofferenze eccetera, ma in tutto questo Carmelo Abate, a parte il riscontro che può arrivare dalla notorietà, dall'introito del libro eccetera, ma cosa si porta dentro di sé in tutte queste storie, di amaro o di dolce? Cioè, qui lo sai che tu rischi di aprire. No, ti prego, sintetico, dobbiamo mandare la pubblicità. Il punto, sai cos'è? La chiacchierata con voi mi riporta alla mia dimensione naturale, cioè mi apro. E una domanda del genere, cioè, se vuoi veramente. Ti giuro, non l'ho preparata. Vado a braccio. Guarda, per me fare le indagini sul campo non significa mettere una maschera. Calarmi nei panni per un attimo di quelle persone, poi fare cucù, togliermi la maschera e fare la morale al malfattore beccato. Per me l'inchiesta sul campo è incominciare a pensare come le persone che voglio andare a raccontare, calarmi nei loro panni, cioè entrare proprio nel loro mondo, pensare come loro, vivere come loro. Cioè, l'inchiesta sul campo inizia nel momento in cui io, quando mi presento a loro, non mi ricordo più neanche del mio vero nome, ma mi presento naturalmente col nome che mi sono inventato di volta in volta. Sembra ora però questo processo è un processo che lo vivo, cioè, ed è un arricchimento pazzesco che alla fine mi rimane, perché le persone si fidano nel momento in cui ti sentono uno di loro, cioè bravo. Sentono che non stai recitando, perché queste cose le avverti. Ti assicuro che ogni volta è un riemergere, un sentire dentro il peso di tutta la questione affrontata. Sono sicuramente una persona più ricca, sono un giornalista che non ha mai ricevuto premi e che non riceve premi, non c'ho amici se non quelli che incontro in modo naturale e con i quali mi bevo un bicchiere di vino e non parlo assolutamente di lavoro, non sono un giornalista di establishment, perché non mi interessa l'establishment se non nel momento in cui lo devo andare a colpire per fare il mio lavoro, che è quello di pungolo all'attività dei cosiddetti potenti. Mi fermo qui, perché sennò veramente vado avanti fino a stasera e i tuoi ascoltatori magari incominciano a chiamare arrabbiati. No, è piacevolissimo ascoltarti, anche perché sei una persona, ti dicevo prima, molto umana. Io ti lancio invece una mia provocazione, siccome so che uomo sei tu, perché l'ho letto, ne ho parlato con amici tuoi che ti conoscono personalmente, io ho imparato a conoscerti sebbene telefonicamente e so già la tua indole qual è. Io sono molto sensibile, guarda, alle persone portatrici di handicap e vorrei, se avessi la possibilità di poterlo fare, ma so che per me sarà molto difficile visto che vivo in un contesto e in una regione che è proprio chiusa avulsa da queste situazioni, fare una bella inchiesta invece nelle carceri, capire cosa significa vivere H24 in una stanza di 12 metri per 6, capire cosa significa convivere con altre persone diverse da te, di anno in anno, di ora in ora, minuto per minuto. E questo l'ho fatto un po' a Frosinone, poi sono sceso giù e mi è rimasto nel groppone questa cosa. Quindi quello è un tema che mi sta particolarmente al cuore, anche in quest'ultimo periodo in cui sono andato spesso in Rai a parlare della storia di Erika Omar, sì, no, di altri casi di cronaca in, sì, cui sento la gente che è indignata per il tempo della pena, no? Dice, ma com'è possibile che una ragazza che ha fatto tutto ciò sia già fuori dopo 10 anni? Io mi sforzo in qualche modo di dire che non è il tempo passato in carcere, è la qualità del carcere, perché noi ci dovremmo interessare, dovremmo cercare di capire se la vita passata in carcere contribuisce a farti fare un processo di riabilitazione o meno. A me viene da dire, una persona meno sta in carcere, più il carcere funziona e me lo riporta nella società ristabilito, meglio è, chi se ne frega. Invece noi siamo abituati a concepire il carcere come buttiamoli là dentro, gettiamo via la chiave e che ci rimangono 20-30 anni, peccato che poi entrano lì che sono omicidi o assassini ed escono che sono delinquenti, rapinatori, perché praticamente piuttosto stiamo, che riabilitarsi stiamo toccando certo, delle tematiche molto molto calienti, perché poi lì c'entra la politica, c'entrano tantissime cose. Però ti dico questo, se tu dovessi partire con una questione del genere, cioè andare a sviscerare questo mondo occulto ai più, cioè loro vivono per conto loro, un mondo a sé, è un mondo a sé stante, un mondo dove quello esterno non riesce ad entrare o non gli interessa entrare. A me invece interessa molto capire cosa significhi vivere là dentro, raccogliere delle testimonianze e, perché no, se è il caso, anche lì fare un libro o fare un'inchiesta anche televisiva. Mi fermo qua. Un'ultimissima domanda a Carmelo. Io verrò su a Milano, ce lo siamo detti telefonicamente, spero di incontrarti, ci prendiamo un buon caffè insieme e ci faremo una bella chiacchierata senza parlare di lavoro, ti prego. Parleremo di Sicilia, di enogastronomia. Parleremo della tua venuta a Castelbuono e a Cefalù. Intanto l'invito ti è stato dato ufficialmente via radio, quindi non puoi esimerti. A luglio, quando tu riterai opportuno, compatibilmente con gli impegni sia dell'assessore miei e tuoi, saremo felicissimi di accoglierti, sarai con noi per qualche minuto o per qualche cena post presentazione ultimo tuo lavoro, e così avremo modo di riabbracciarci tutti quanti. Ti saluto intanto. Lasciami salutare l'assessore. Prego. Anche un'altra cosa. Prego. Ha toccato praticamente il film che conosco a memoria e che avrò visto decine di volte, che sul mio sito praticamente ho messo le frasi che Philippe Noiret dice a Totò quando gli dice vattene,

Vieni a Cefalù dal 28 ottobre al 1 novembre per la manifestazione Mangi Italiano Vivi Meglio. Eventi, spettacoli, degustazioni enogastronomiche e tanto altro ancora per animare le tue serate. Per il programma dell'evento e informazioni collegati al sito internet www.mangiitalianovivimeglio.it o chiama il 327-5769-805. Iniziativa patrocinata dal Comune di Cefalù con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. E ricorda, Mangia Italiano e vivi meglio dal 28 ottobre al 1 novembre a Cefalù. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro. Se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, presterò quel che sono, disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sa, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Alle mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro, come io e l'assessore Patanè, siamo legati dentro da una stima reciproca, più che altro simpatia, ecco, diciamo simpatia, poi stima, perché chiaramente altrimenti non avrebbe accettato sicuramente l'invito di venire qui. Ringrazio ancora Carmelo Abate, che avremo il piacere di avere ancora in trasmissione nelle future puntate, in primavera si spera, e poi, come abbiamo detto, ha accolto di buon grado l'invito che ha fatto l'assessore a titolo personale, ma anche a titolo dell'intera giunta comunale. Mi auguro che così possiamo averlo tra noi, perché sicuramente una persona interessante, scevra dal fatto che poi sia giornalista o che sia uno che fa delle cose straordinarie, come il libro che poc'anzi abbiamo parlato, magari cambiando il testo, così funzionerebbe anche meglio. Patanè, torniamo a Cefalù, perché questo ci interessa. Molti hanno editato Cefalù nel tempo, negli anni, come la locomotiva economica dell'intero comprensorio madonita. Poi questa locomotiva si è un po' inceppata. È stata colpa della politica? È stata colpa degli imprenditori locali? Di chi è stata la colpa, se colpe ci sono state? Ma è naturale che il cittadino, gli operatori economici tendono immediatamente a dare colpa alla politica, però la storia di questi ultimi anni dimostra che le responsabilità sono ben ripartite, nel senso che la finanza, gli imprenditori, la politica probabilmente non si erano accorti che stavano sperperando interi patrimoni senza nel mentre guardare alla falla che si trovava nei conti del comune, nei conti della provincia e della regione, ma nei conti di ogni impresa, nei conti delle banche, dove probabilmente con troppa facilità e con troppa a volte anche spregiudicatezza si agiva. Tutto questo, devo dire, ormai sta finendo, ma sta finendo non perché evidentemente c'è una volontà comune che ciò finisca, c'è una volontà intanto di singoli che questo finisca, ma c'è una necessità da parte della sopravvivenza economica e politica della nostra società che questo finisca. Da questo punto di vista, come giunta, per tornare a Cefalù, da 2 anni cerchiamo di mettere a posto i conti, che per oltre 30 e 40 anni sono andati in una direzione evidentemente di spesa incontrollata. Ce lo siamo imposti, ce lo impone la Corte dei Conti, dobbiamo farlo. Ok, allora, per quanto attiene invece le infrastrutture, parliamo del porto di Cefalù, che è sempre stato, mi pare, ancora non si sia completato del tutto, quali altre strutture mancano per essere competitivi, per fare un esempio con Rimini, con Riccione, insomma con le capitali del turismo nazionali? Allora, il porto davanti ad ogni cosa. Il sindaco da un mese, devo dirti, giornalmente si è incontrato a Palermo con le opere marittime Sicilia e Calabria e con il genio civile, perché si stanno cercando e forse si sono finalmente trovate le risorse per fare il nuovo porto di Cefalù. Da questo punto di vista lui ci sta mettendo la sua faccia, noi come giunta lo sosteniamo, perché entro la prossima estate si dia una chiave di svolta al tema. Le altre infrastrutture che servono a Cefalù e che sono sotto gli occhi di tutti evidentemente sono i parcheggi. Noi abbiamo una capacità di accoglienza personale, nel senso come cittadini cefaludesi, che è meravigliosa. Dall'altro punto di vista non diamo la possibilità spesso al turista neanche di arrivare sul lungomare, sul ristorante e così via, perché non trova parcheggio. Per fare questo però è chiaro che ci vogliono notevoli risorse, si devono fare degli espropri, si devono fare dei lavori pubblici, dovremmo iniziare a pensare a dei project financing che individuino delle aree ed investire in tal senso. Sono tempi lunghi però. Io propenderei per una direzione diversa, disincentivare l'uso della macchina. Allora la butto lì come provocazione. Che bravo, guardi, condivido appieno. Vuoi entrare nel centro di Cefalù, e per centro intendo via Roma e il lungomare, mettiamo un ticket ovviamente non per i residenti, questo mi pare naturale, ma per il turista. Ah, ma si crederà allo scandalo, disincentiviamo il turista. No, disincentiviamo l'uso della macchina. E però mettiamo e potenziamo i mezzi pubblici. Bravo. Vediamo di trovare dei trasporti possibilmente elettrici, il trenino elettrico, le biciclette elettiche e le auto elettriche all'interno, che ti portano in giro con un costo storico sociale, evidentemente, quindi di pochissimi centesimi di euro. Questa è la direzione che meglio di me è l'assessore Corsello, che è l'assessore al ramo del traffico, con gli uffici del comune sta cercando di sviscerare. Se ci riusciamo, non avremo più la polemica come è stata l'estate scorsa, se devo chiudere, se devo aprire una strada. Avremo probabilmente risolto buona parte del cosa, e portato delle risorse al comune da reinvestire assolutamente nella viabilità. Mi fermo un secondo per quanto attiene le infrastrutture, quelle recettive, quelle che bisogna fare, perché sennò il turismo ce lo salutiamo bello e buono. Parliamo invece di spettacoli. Negli ultimi tempi, negli ultimi anni, Cefalù non è che abbia brillato moltissimo per quanto attiene nome di una certa nomenclatura. Ma non è il nome del cantante prestigioso che fa poi la scena, no? A livello di panorama nazionale. Cosa secondo te serve per riportare ai vecchi splendori, nonostante il problema economico, i tagli verso i comuni, verso le regioni, eccetera? Questo argomento non me lo pongo, il problema economico. Ecco, allora, secondo te quale ricetta c'è per il malato in questo momento? Il malato è l'economia, non si può fare nulla nella vita se non ci sono i soldi. Sappiamo perfettamente la situazione politica e economica in Italia, e non solo in Italia, per nostra disgrazia, qual è. Però bisogna sempre pur fare qualcosa, perché se i turisti arrivano, cosa fanno la sera? Una volta che il mare fa buio, il mare non si va più a fare il bagno, bisogna dare qualche altra cosa come modus per divertirsi. Il problema va affrontato, lo stiamo affrontando su 2 livelli. Uno che è quello economico, ti dicevo poco fa, è quello che mi preoccupa meno. L'altro è di sinergia tra l'offerta che il pubblico dà è quella che invece viene data a intrattenimento da parte degli operatori turistici nell'ambito degli alberghi. Perché se da un lato gli alberghi tendono, per recuperare i costi ai quali vendono i tour operator le proprie camere. Tendono, per recuperare questi costi, a tenere sempre di più dentro gli alberghi il turista e quindi a creare un intrattenimento di qualità dentro i propri alberghi, perché così, se quello se ne va a teatro, dentro albergo segue l'animazione perché c'è il nome, il cantante, come succede a Cefalù, è anche bene, evidentemente il turista non va nella città e quindi non porta la ricchezza, non va a mangiare fuori al ristorante, non compra nei negozi e così via. Dall'altro lato, io come comune a volte rischio di fare spettacoli anche con costi notevoli e avere pochissimi spettatori. Te lo dico perché è successo: noi abbiamo avuto Dimitra Teodossio, che è la nuova Callas, all'Arena Daphne, e c'erano 200 persone. Evidentemente o abbiamo sbagliato noi nella comunicazione o probabilmente giusto quella sera, perché noi parliamo del 18 agosto, dappertutto l'intrattenimento era più interessante e quindi il turista non viene. Allora il ragionamento qual è? Facciamo sinergia con gli albergatori, facciamo sinergia con gli operatori turistici. Tu dici, coinvolgiamo anche loro. No, facciamo un'operazione di intrattenimento, per cui se il venerdì io porto il grosso nome a Cefalù, negli alberghi si promuove il grosso nome e non si faccia l'intrattenimento, nei ristoranti non ci sia il piano bar e così via. Di contro la risorsa economica, e vado al secondo livello, al secondo problema, si discute, e stasera se ne parlerà in Consiglio Comunale, della tassa di soggiorno, di questa benedetta imposta di soggiorno, se metterla, se ti non metterla, prego di allungarti troppo. No, sono sintetico. La tassa di soggiorno, gli albergatori mi dicono, penalizza noi, avremo meno turisti. Dall'altro lato è una tassa che deve essere indirizzata alla promozione turistica e quindi serve per fare turismo. Allora, se noi facciamo sinergia con gli albergatori, come ti dicevo prima, concordiamo un programma di intrattenimento, concordiamo un programma di interventi sulle infrastrutture per migliorare l'accoglienza turistica e lo facciamo insieme, la tassa di soggiorno diventa la risorsa assolutamente naturale alla quale tutti fare riferimento. Se ognuno sta barricato nella sua torre, non andiamo da nessuna parte. Non si arriva da nessuna parte, le cose si fanno tutti insieme, perché altrimenti da soli non si fa nulla. Ti fermo un secondo perché devo dare spazio, come è giusto che sia, agli sponsor, senza i quali, lo ribadisco sempre, non è possibile fare nessuna trasmissione in nessun palinsesto di rispetto, e soprattutto nelle TV private, e quindi io voglio invitarvi ad andare a mangiare, perché veramente si mangia bene, il pesce è freschissimo, al ristorante Ai Sapori di Mare. Quindi lo dice tutta la parola, non c'è bisogno di andare oltre. Lo trovate in via Cristoforo Colombo 8 bis, a Termini Imerese. Vi do il numero di telefono perché fanno anche catering: 091 81 11 447. Frutti di mare, ricci, crostacei, cotti e crudi, pesce soprattutto fresco. Andateci a nome di Filippo Glorioso, sicuramente un tocchettino sul prezzo o quanto meno una vaschettina di ricci vi verrà omaggiata con sconti particolari. Ricordate quindi, ristorante Ai Sapori di Mare di Bellaville Santo, frutti di mare, ricci, crostacei, vendita frutti di mare e crostacei, servizio catering, via Cristoforo Colombo 8 bis Termini Imerese. I primi piatti ve li lascio immaginare, con le vongole, con i ricci, insomma non vi dico nulla, dovete andare a in questo ristorante e gustare veramente la freschezza del pesce che Bellaville Santo vi mette a vostra totale disposizione. Termini Imerese, mi raccomando. E ancora, a Castelbuono, per chi volesse passare una serata diversa da tutte le altre, c'è un nuovo disco pub al Texano, in via Abruzzo numero 10, musica dal vivo, beverage, ma anche se volete gustare tartine, potete gustare i tramezzini tra un bicchiere di coca, magari un bicchiere di birra. Nel frattempo c'è anche un palchetto che si apre dinanzi a voi con delle luci straordinarie, e c'è anche la musica dal vivo, c'è anche il balletto dal vivo, ma incontri anche culturali, se volete. Potete passare una tranquilla serata all'insegna della convivialità, dello stare insieme in un ambiente raffinato, dove c'è anche la sala giochi, chi volesse andare a giocare, o chi vuole invece chattare può farlo, perché c'è anche la sala dei computer. Telefono 0921 671199. C'è anche il poker online, quindi Disco Pub al Texano Castelbuono, prossima apertura. Vi annunceremo noi quando ci sarà l'inaugurazione. Natura e gusto, carni, formaggi, prodotti agricoli dal produttore al consumatore, via Libertà 138, finale di Pollina. Vi ricordo che una cooperativa, per cui tutto quello che si produce nella cooperativa è rigorosamente genuino, di origine controllata, anche la verdura come la carne, portate a casa vostra un pezzo di natura delle Madonie. Natura e gusto, vi lo ricordo, via Libertà 138, finale di Pollina. Se invece volete rimanere a Pollina, avete fretta, volete comprare qualcosa per andare a casa a mangiare perché vostra moglie è impegnata, non gli va di cucinare quella sera, dovete andare nella rossicceria Trattoria Gastropoli, via Einaudi numero 12, con i primi di antipasto, Casarecci, con le tagliatelle al sugo di cinghiale. Ragazzi, già è l'ora di pranzo, mi pare che le papille gustative cominciano a fare le bizze, no? Funghi, porcini, ragazzi, ha piovuto, adesso c'è il sole, dovrebbero già essere fuori e arrivare freschi freschi alle nostre tavole. Poi i frutti di mare con gli spaghetti, che sono qualcosa di particolare, non vorrei che l'assessore gli venisse qualcosa perché ci stiamo guardando in faccia. Piatti, pollo arrosto, carne di cinghiale, vitello e agnello, e soprattutto le stigliole che io adoro moltissimo. Pesce rigorosamente fresco, locale, pescato locale. Rossicceria Tavola Calda Gastropoli, via Einaudi 12, a telefono 0921 per le vostre prenotazioni, 426121. Detto questo, linea regia, brano musicale, rientriamo tra poco per la chiusura totale del nostro programma. Prego. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa, e anche per lui. Per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un piano forte. Di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. È un dolore quando parte, con piacere estremo cresce, attraverso la mia voce si espande, e amore conduce. Rieccoci in diretta, vi ricordo sto ascoltando Carta e Penna, programma condotto in studio da Filippo Glorioso, grazie come sempre al nostro Raul Bova alla console, ospite in studio oggi il dottor Patanella nelle vesti di assessore al spettacolo e turismo del comune di Cefalù. abbiamo avuto anche il buon Carmelo Abate, nostro corregionale, nostro amico delle Madonie, e per chi vuole potrà vederlo a luglio, vi faremo sapere come e quando, a presentare l'ultima sua opera qui a Cefalù. Allora, un'ultimissima domanda, assessore, a parte chiederti ma che ufficio fa? dico a parte la battuta di scherzo, che spesso si chiede, sai, ad alcuni personaggi che fanno magari inchieste come l'amico Carmelo, che poi vanno anche a rischiare, a volte tu non rischi grazie a Dio la vita, però non si può sapere mai qualche statuetta in fronte come arriva. Dico, a parte le battute di scherzo, intanto tu come professione sei avvocato, per cui legalmente sai come muoverti e questo non ci piove, ma un punto che voglio chiarire è questo: da quanto tempo tu sei assessore a Cefalù nell'AMO? 5 novembre 2009, quindi adesso faremo 2 anni. Adesso, un bilancio di questi 2 anni di tuo assessorato? Ma il bilancio nel bene e nel male, assolutamente positivo, sia per l'esperienza personale sia per l'esperienza politica. Abbiamo cercato di fare tanto, lo abbiamo fatto con pochissime risorse, un dialogo aperto con tutta la città, con tutti gli operatori turistici, e tanto consenso su quello che si è fatto, ma soprattutto la voglia di partecipare da parte dei cittadini cefaludesi, che è stata eccezionale. E a volte si è sbagliato, quando si è sbagliato e si è riconosciuto non ho avuto difficoltà a chiederne scusa. Se dovessi dare un voto all'esperienza, sicuramente un 7. Il voto alla mia, al mio modo di agire, al mio modo di fare le cose, non spetta a me darlo, e quindi saranno i cittadini, laddove dovessi essere nuovamente presente, a giudicarlo. Sogno nel cassetto che vorresti realizzare l'immediato futuro? Sogno nel cassetto a Cefalù, il PastaFest. Noi abbiamo il Festival del Gelato, che è lo Sherbet, però abbiamo a Vaisantiano. È il terzo anno che c'è l'associazione che fa Lion, che la fa, e la fa con propri sforzi e propri sacrifici. Il mio sogno nel cassetto è far sì che la Sacca della Passantiano diventi un pasta festa, cioè una festa della pasta, con ormai la collaudata formula dello Sherbet, ovviamente fatta e realizzato da tutti i cefalutani, e soprattutto in pole position l'associazione che fino ad oggi più di tutti ci ha creduto. Bene, con questa ultima risposta io ti fermo qui, ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Io ringrazio te, ringrazio voi e Angelo Arduino per avermi voluto sempre qui presente. Ma ci mancherebbe, sei una persona straordinaria, i microfoni nostri sono sempre a totale disposizione per qualsiasi comunicazione il tuo assessorato o tu volessi fare ai tuoi concittadini, lo puoi fare tranquillamente. E allora ti rubo 30 secondi. Prego. Dal 28 ottobre al 1 novembre ho sentito lo spot, lo ricordo, il Ministero delle Politiche Agricole ha voluto offrirci il finanziamento per questa iniziativa promossa al Comune di Cefalù, Mangia Italiano, Vivi Meglio, presso la Corte delle Stelle, Ottago di Santa Caterina, in via Mandralisca, gli stand di degustazione dei prodotti assolutamente siciliani, soprattutto delle Madonie, in sinergia tra Cefalù appunto e questo splendido parco. Grazie all'assessore Patanè, sicuramente un personaggio che come sentite si accalora perché comunque crede in quello che fa, non potrebbe essere che così, ed è una persona di sicuro interesse sotto il profilo umano, ma anche sotto il profilo, voglio dire, politico, perché altrimenti non si spiegherebbe il suo impegno profuso in questi anni, in questi 2 anni, nel portare avanti le tematiche per quanto attiene appunto lo spettacolo del turismo qui a Cefalù. Lo ringrazio, ma resti con noi perché andiamo a chiudere la trasmissione e poi fuori onda ci faremo una bella bevuta di acqua fresca. Allora, detto questo, bisogna ringraziare ancora azienda agroturistica Bergi. Pensate, questa azienda è carina, è fatta tutta a pietre, con le casette graziose, con l'aria condizionata d'estate, con il riscaldamento d'inverno, televisione in camera, potete cenare e pranzare dentro questa azienda, ma la cosa più bella è che è custodita all'interno di un polmone verde. Basta stendere la mano alla vostra finestra, raccogliete i limoni e le arance con il profumo di zagara che poi vi inebria per tutto il periodo. Poi c'è una piscinetta che d'estate è favoloso fare delle cene o dei pranzi a bordo piscina, quindi è suggestivo anche come scenografia, ma la cosa più bella, pensate, ha dei prodotti enogastronomici straordinari, è un'azienda che fa tutto quanto senza aggiunta di anticrittogamici o di quant'altro possa danneggiare poi l'organismo umano, per cui natura, pensate, ha vinto la bandiera verde come culture e come prodotti enogastronomici di grande rilievo. Azienda agroturistica Bergi, lo trovate in via Geraci, per la strada che porta a Geraci Siculo. Andateci a nome di Filippo Glorioso, sicuramente qualche pernottamento in omaggio vi verrà fatto. Azienda Agroturistica Bergi, Condrata Bergi appunto, sulla strada che porta per Geraci Siculo, bandiera verde, quindi gustate tutto quello che l'azienda produce, compratelo perché è anche un punto vendita in via Sant'Anna. Un'ultima chance la diamo a un'altra grande azienda, Nuova Edilizia Siciliana, chiavi in mano per la ristrutturazione della vostra casa, interno, esterno, anche il giardino, ma la peculiarità di questa azienda è che, pensate, con la polvere di marmo realizza delle opere d'arte straordinarie, dalle panche ai tavoli, ma anche a dei bassorilievi per, come dire, arredare meglio la vostra casa. Non scordatevi questo nome, Nuova Edilizia Siciliana, lo trovate a Campo Felice Roccella, lo trovate in via della Provincia 15, appunto a Campo Felice. Nuova Edilizia Siciliana. E quanto di più bello ci possa essere per arredare la vostra casa. È tutto per questa puntata. Io ringrazio ancora una volta il nostro amico Raul alla console per averci seguito con tanta pazienza. Abbiamo sforato un bel po' il nostro l'ora che c'era consentita per poter disquisire con voi. Ringrazio voi per averci ascoltato, gli sponsor, ma soprattutto ringrazio l'amico Carmelo Abate e l'assessore Patanella per essere stato con noi. A tutti quanti voi buon weekend, l'appuntamento per domenica alle 9:30. Dopo di me bye day bye, una trasmissione straordinaria, e poi naturalmente la replica domenica alle 9:30 circa in prima mattinata. Cos'altro dirvi? Se c'è una bella giornata sabato e domenica, andate a farvi una bella vacanzetta, perché da lunedì poi si ricomincia il Tran Tran quotidiano. Un bacio a tutti da Filippo Glorioso, ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.